La forza si calcola moltiplicando la massa per l'accelerazione. Se la forza è 50 N e l'accelerazione è 10 m/s², qual è la massa?